Concessionaria esclusiva per la pubblicità su CRM per Castelbuono Paper System, via Vittorio Emanuele 86, telefono 0921 67 14 78. Per Termini Imerese Phil Sound, via Mazzarino 10, telefono 091 811 08 53. Per Cefalù CRM Promotion, via San Vito 8, telefono 0921 42 34 56. Per il resto della Sicilia Publi 7, via Catania 14 Palermo, telefono 730 27 50.